Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Quella che è l'ultima settimana di Eclettica del 2006. Poi ce ne sarà una di sospensione fra il Natale e il Capodanno e si riprenderà con il 2007, sempre all'interno della 13ª stagione di Eclettica, che vi ricordo va dalla fine di un'estate all'inizio dell'estate successiva. Ho forse anche qualche biglietto da regalarvi, fatemi guardare. Sì, ne ho uno, semplicemente uno. Non in termini numerici di biglietto, in quanti biglietti sono di più, ma in termini di evento, il concerto che gli Amari terranno allo Zero Music Club il 29 di dicembre. E quindi, per quanto riguarda questo contest, l'importante è che scriviate a giulio@radiorockfm.com. Per quanto riguarda invece il resto, lascio la parola ad altri. Le parole, per la precisione, sono di Pedro Juan Gutierrez. Un clipper quadrimotore della Pan American, proveniente da Chicago, entrò nel corridoio aereo che costeggiava L'Avana, a est e a sud. Scese dolcemente, centrò l'asse della pista principale e atterrò nel piccolo aeroporto di Rancho Boyeros, all'1:10 del pomeriggio. Era un giorno d'estate, umido, nuvoloso ed eccezionalmente caldo. Un gruppo di una quarantina di turisti americani allegri e spensierati, alcuni dei quali in camicia a fiori e pantaloni bianchi, sbrigò velocemente le formalità doganali. L'ufficiale si fermò qualche secondo in più, con un uomo magrolino e bassetto che viaggiava con passaporto britannico. Esaminò la foto, guardò il viso del passeggero, verificò che fossero identici, appose il timbro e gli disse gentilmente «Welcome, mister!». Questo era l'incipit del nostro Gigi a L'Avana. Splashing around in the muck and the mire. dry. I'm pearly like the white whites of your eyes. Eclectica. Squinted to see the retreat of their hairless and blind cavalry. You froze in your sensual, prayed for your poor soul. Sky was a bread roll, soaking in the milk bowl. And when the bread broke, fell in bricks of wet smoke. My sleeping heart woke, and my waking heart spoke. And there was a silence you took to mean something rancid. For alive you will evermore be. And the plague of the greasy black engines, a skulking has gone east. Were you left to explain them to me? Your pockets stubbly running to where I'm unfresh, undressed and yawning. Well, what is this craziness, this crazy talking? You caught some small death when you were sleepwalking. It was a dark dream, darling, it's over. The fire breather beneath the clover, beneath his breathing, there is cold clay forever. A toothless hound dog choking on a feather. But I took my fishing pole, fearing a fever, down to the swimming hole where it grows a bitter herb that blooms but one day a year. By the riverside, I bring it here. Apply gently to the love you've lent me. While the river was twisting and braiding, the bait barbed in the string sobbed as it cut through the hustling breeze. And I watched how the water was kneading so neatly, gone trickling, nearly slow to a stop in his heat, in a frenzy, coil and flush long the muscles beneath. Press on me, we are restless things. Whips of seaweed are swaddled. The dusk of the mask of a squid shot, full of ink until you sink into your crib. Rowan nylon among the reeds, among the rushes, I heard your song. Had time to hush it. Smell of a stone fruit being cut and being open. Smell of a low and of a lazy cinder smoking. And when the fire moves away, fire moves away. Song. was the last one. Scrape your knee, it is only skin, makes the sound of violin. And when I cut your hair and leave the birds all of the trimmings, I'm the happiest woman among all women. In the shallow waters, which is as far as I can see, knee deep, trudging along the song until the night is over. Hold on, hold on, hold your horses back from the fickle dawn. I have got some business out at the itchy town, candy weighing both of my pockets down till I can hardly stay afloat from the weight of them. What it is I do to you to keep you warm, being a woman, but always up the mountain side you're clambering, groping blindly, hungry for anything, picking through your pocket, lining with what is this, scrap a sassafras, a Sisyphus, I see the blossoms grow. Tall and row, teed and impalpable, bit of leather while you row. Heather and hollyhock awkwardly moat along the shore. Are you mine? My heart, mine anymore? Stay with me for. Lately done, failing this, failing this. Follow me, my sweetest friend, to see what you anointed in pointing your garden there. Lay it down, nice and slow. There is no. Spring night in, well, elsewhere estuaries of wax white wand, endlessly toward seashore. shores are met. Last week our picture window produced a half word, heavy and hollow, hit by a brown bird. We stood and watched her gape like a rattlesnake, and paint and labor over every intake. I said a sword of prayer for some rare grace, then thought I ought to take her to a high place. Said dog, nor vulture, nor cat shall toy with you, and though you die, bird, you will have a fine view. Then in my hot pen she slumped her sick way. We tramped through the poison oak, heartbroken in Kuwait. The dogs were snapping and you cuffed their collars while I climbed the treehouse. Then how I hollered. Well, she'd lying as still as a stone in my palm for a lifetime or two. Allora, siete andati a cercare Van Dyke Parks con Google? E vi avevo dato qualche consiglio qualche settimana fa quando avevo trasmesso per la prima volta Ease, il nuovo album di Joanna Newsom, un album anomalo, 5 tracce, alcune molto lunghe, per esempio quella in questione che purtroppo taglio un pochettino, spero che non me ne vogliate troppo, è più di 16 minuti, Only Skin. Già ve ne avevo fatto ascoltare un'altra dal titolo Cosmia. E comunque Van Dyke Parks è uno dei grandi nomi che danno una mano a Joanna Newsom per la realizzazione di questa sua nuova opera, oltre a quelli di Jim O'Rourke e Steve Albini. Magari su questi due ultimi nomi mediamente dovreste essere più preparati. Adesso non è che voglio dare un giudizio sul vostro livello di preparazione, però magari Van Dyke Parks, per motivi anche solo anagrafici, potreste averlo perso, e il motivo del consiglio quindi era legato solo a questo, solo all'anagrafe, così per non darvi dei vecchi. Invece avevamo aperto Eclettica con i Cold War Kids, che già ci eravamo ascoltati anch'essi qualche settimana fa in occasione del tour che hanno fatto in Europa assieme ai Two Gallants. Robbers and Cowards è il titolo dell'album che ha aperto Eclettica questa settimana, con il brano Hang Me Up to Dry. E a proposito di album che ci stiamo ascoltando, come quello di Joanna Newsom, con tracce diverse per cercare di capire nella completezza degli ascolti, sempre limitati, non possono essere tutti, il loro valore è quello dei Grey Moon, band veneto francese che già conosciamo qua in Eclettica dai tempi di Demolition, che sono usciti per la loro Macaco Records con un nuovo album dal titolo La Lanterne Magique, dal quale quest'oggi ci ascoltiamo Mocha. Thank you. cherche rien à faire quand on est différent, on crève. On pourra pas dire qu'on n'a pas essayé. On voulait rien aux gens, on avait juste la bière et le café. Et puis nous deux, mon cœur, on est de vieux amis, on s'entend vraiment bien. C'était le bonheur ici, dommage. Allez viens, mon cœur, on s'en va. De toute façon, nous, on a besoin de rien. Prends ton sac et dépêche-toi. My challenge! By the ancient laws of combat, we are met at this chosen ground to settle for good and all! Who holds sway over the 5 points? Us natives, born rightwise to this fine land, or the foreign hordes defiling it? Frozen into the cars, white girls of the north. File past one, fire one. They are the fabled lambs of Sunday Ham, the H.S. Norm. And they could float above the cars in circles if they tried. Laden power, I know. To keep some hope alive that a girl like I could ever try, could ever try. Walking L'album uscirà solo a fine gennaio, beh, un po' prima della fine, esattamente il 23 di gennaio, tanto che anche il distributore italiano della Sub Pop si è spaventato quando ha letto le playlist di Eclettica della settimana scorsa e ha trovato il nuovo dei The Shins dal titolo Phantom Limb. Pensavano che mi dessi ai download illegali, invece l'avevo avuti illegalmente direttamente dagli Stati Uniti. The Shins, quindi, che hanno chiuso quella che è la prima parte di Eclettica di questa settimana in compagnia di Giulio Caperdoni, che vi ricordo anche essere l'ultima dell'anno di calendario 2006. Vi ricordo il mio indirizzo di mail, giulio@radiorockfm.com, per contattarmi direttamente, per esempio, nel caso lo vogliate, essere iscritti anche alla lista nera per avere gratis nella vostra casella di posta la playlist di Eclettica, costo zero sicuro, e poi l'indirizzo di myspace.com/eclettica, che è invece l'altro spazio, quello aperto a tutti, e su entrambi avete la possibilità, o scrivendo direttamente a me o pubblicandolo in modo che tutti lo leggano, di pubblicare quella che ritenete la classifica delle migliori canzoni del 2006 di Eclettica, in modo che poi ad inizio 2007, una in fila all'altra, ce le ascolteremo tutte. Alla prossima! Eclettica. Fine della prima parte.